Mary Shelley, le lettere. Dalle lettere di Mary Shelley, nata alla fine del Settecento in Inghilterra, emerge una donna innamoratissima del marito, il famoso poeta Percy Bysshe Shelley. Una donna leale, coraggiosa, onesta, lucida, intelligente e colta. Una vera compagna di vita. Anche quando Mary scrive ad altri, l'attenzione è sempre al marito. Fino all'ultima lacerante lettera nella quale descrive la morte dell'amato Percy, i giorni e i presagi immediatamente precedenti, la lunga attesa di notizie, la ricerca del corpo e l'annientamento quando finalmente Percy viene ritrovato sulla spiaggia annegato. Mary è l'autrice di uno dei cult della letteratura, Frankenstein, a torto definito horror, poiché in realtà si tratta di un romanzo a sfondo morale. Traggo dal mio libro, Antenate, la visione delle donne, alcuni brani che descrivono la visione che di Frankenstein ha l'autrice. Il libro è scaricabile gratuitamente dal mio sito, lascio il link in descrizione. Ho vissuto, dice Mary, una vita indipendente come mia madre, viaggiando, amando, studiando e scrivendo. Ho perso mio marito poco più che ventenne e tre dei miei quattro figli. Il lutto segnò il mio passaggio in questa vita. Frankenstein, il mio capolavoro, è stato definito il primo romanzo horror nel mondo degli uomini, che ha voluto bollarlo così per non ammettere l'incapacità maschile a generare la vita. Io invece intesi scrivere un romanzo etico e morale che raccontasse l'abominio dell'uomo che vuole generare per puro ego senza essere stato dotato dell'utero dalla natura. Victor Frankenstein, studente di chimica e scienze, crede di potersi sostituire alla grande madre nella creazione. Pur essendo un'opera morale, il mio romanzo è stato bollato dagli uomini con la definizione di horror. Perché usare un termine così squalificante quando non c'era nulla di orrorifico nelle mie intenzioni, ma solo di doloroso nel processo abortito di creazione da parte di chi non può creare la vita perché non ha l'utero? Quando Shelley, mio marito, morì, tornai a Londra dopo aver vissuto un po' in Italia, cercando di sopravvivere con mio figlio. Tentai di vivere dei miei romanzi e soprattutto curando l'edizione delle opere di mio marito, di cui avevo tutti gli scritti e i commenti originali. L'aristocratico padre di mio marito in principio non mi aiutò, ma poi mio figlio divenne l'unico erede del patrimonio degli Shelley, così finalmente ricevemmo una piccola rendita che ci permise di vivere dignitosamente. Non ammai né sposai nessun altro. Fui vedova per quasi tutta la vita, poiché il mio cuore era annegato con Shelley. La scuola delle donne non ha in programma la lettura di Frankenstein, poiché nel romanzo i protagonisti sono maschi e le figure femminili sono irrilevanti, e anche perché ne esiste già una valida versione audio, di cui lasciamo il link in descrizione. Le lettere di Mary Shelley sono pubblicate da Dall'Orma, tradotte da Marco Federici Solari, e lette da Giorgia, figlia di Lidia. Da Devana, buon ascolto.